piccoli e grandi trafficanti, ma anche tanti consumatori di droga in quelle che sono le periferie di Manila e delle altre città filippine, individui evidentemente più fragili che, come state sentendo anche dalla testimonianza di Amnesty International, non possono opporsi né alla forza della polizia né a questi squadroni della morte, rispetto ai quali il governo non pare, tranne qualche timida e sussurrata voce politica, non pare voglia prendere alcuna misura. E veniamo a un altro capitolo che da questo ovviamente discende, che ha sempre attiene ai diritti umani. Quali sono le condizioni di detenzione dei criminali nelle carcere? Certo, verrebbe da dire, con tutti questi morti ammazzati in carcere ce ne finiscono davvero pochi. Sentite che cosa dice Papa di Amnesty International. Questo è un vecchio problema per le Filippine. Le celle sono sovraffollate e questo ha conseguenze negative non solo sulla salute fisica e mentale dei prigionieri, ma anche sulle dinamiche all'interno della prigione. Si è creata una gestione extralegale delle carceri perché il sovraffollamento ha lasciato spazio alle gang criminali di creare e gestire le prigioni con un loro sistema di controllo. La guerra alla droga ha aumentato il numero degli arrestati, peggiorando la situazione delle carceri già piene. Ma bisogna notare che anche prima delle politiche di Duterte, almeno la metà dei prigionieri erano incarcerati per motivi legati alla droga. Ma vi dicevo che Duterte è presidente da appena 3 mesi, da quando è stato appunto nominato il nuovo presidente, sono state cambiate le leggi che disciplinano le procedure giudiziarie? Sentite Wilner Papa. Per quanto ne sappiamo, non ci sono stati cambiamenti nelle leggi che disciplinano l'azione della polizia e della giustizia. Ma il vero problema è che continuano a esserci uccisioni extragiudiziarie commesse da vigilanti non identificati che si sentono in potere di uccidere i criminali, facendosi giustizia da sé. Questo è un problema enorme. Queste persone sfuggono al controllo della legge, anche se credono di agire in nome di essa. Se la situazione non cambia, ci troveremo in un paese in cui il giusto processo non verrà rispettato. E abbiamo davvero paura che questo succeda. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer. E raccogliendo il mio suggerimento al 3492386666, un ascoltatore ricorda che ad esempio c'è la pena di morte per lo spaccio di droga a Singapore, però c'è anche in Indonesia e in Malesia, aggiungo io, grazie alla segnalazione di Antonio Talia che in regia assieme a Eleonora Aragona e Silvia Mannati a scrivere con me anche questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, ouvir pra não chorar. E come già in qualche modo questa musica suggerisce, ve lo dicevo, inizio trasmissione, adesso vi porto in Brasile perché all'apertura, ormai manca pochissimo, di questi giochi olimpici, il paese ha un sacco di gatte da pelare. In realtà, se voi andate a recuperarvi il podcast di Nessun Luogo Lontano dell'anno scorso, più o meno in questo periodo, non per fare i profeti di sventura, ma già ponemmo insomma alcune domande e ci ponemmo delle domande, provammo a dare delle risposte. Preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a Allora, tra poco ci collegheremo in diretta con Dario Ricci. Vediamo se la mia voce sostiene, ma se anche la linea telefonica fino a Rio ci sosterrà. E poi avremo altri ospiti, tra cui Roberto Darin, che avete già sentito ieri. Ci sono alcuni punti che io vorrò toccare e, diciamo, potremmo ironicamente o anche provocatoriamente dire le tre medaglie che il Brasile non potrà mai guadagnarsi in queste settimane, in questi giorni di giochi olimpici. Beh, uno riguarda la stabilità politica. La seconda medaglia sarà, chissà, quella del tema della sicurezza, del disagio sociale. Qua si aprono scenari inquietanti a partire dalle favelas e appunto dalla sicurezza nelle favelas, ma lì poi vi proporremo una chiacchierata che abbiamo appena realizzato con Robert Mugga, che è direttore di Garapé, un istituto che si occupa proprio di sicurezza in Brasile. E poi la terza medaglia, quella dell'economia, quanto il volano olimpico si tradurrà in spinta reale per l'economia, perché la storia olimpica e non solo ci ha consegnato in passato grandi illusioni, per citare un libro e un tema toccato ieri, che sono poi evaporate. Allora, Dario Ricci, Rio de Janeiro, ce l'abbiamo fatta, vediamo. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, abbraccios da Rio de Janeiro. Ecco, che bello, mi piace sentire una voce così squillante, cristallina e limpida, a dispetto della mia. Dario Ricci, sei arrivato da pochissimo, però certamente sia all'arrivo all'aeroporto che la mazzetta dei giornali stamattina appena sveglio con un ottimo caffesigno, sono certo che ti avranno restituito il polso e l'atmosfera sulla situazione sicurezza. Che cosa ci puoi dire da questo punto di vista, Dario? Intanto apprezzo il tuo ottimismo, perché qua ogni passo è sudato, per carità, metaforicamente, quindi altro che caffesino e mazzetta dei giornali. Quindi lo prendo come un augurio, speriamo di trovarli presto. Detto questo, invece, l'approccio con la città è stato particolare e buono all'inizio, quando siamo arrivati, perché l'organizzazione nazionale di Rio de Janeiro è sembrata buona e effettivamente, laddove la città lo consente, ci si riesce anche a muovere con una certa facilità. Poi col passare delle ore stanno emergendo un po' le difficoltà di questa Olimpiade, che prova da mettersi in vestito della festa, ma che chiaramente deve far fronte con tanti problemi. Primo su tutti, e non l'unico, è il traffico, che soffoca, diciamo, anche le migliori intenzioni dei media e di chiunque possa appartenga alla famiglia olimpica. Sì. E poi sicuramente le difficoltà logistiche di cui tanto si parla, e anche la realizzazione finale delle infrastrutture è sicuramente incompleta, incompiuta. Questo si riverbera poi sull'organizzazione generale di Sì. Sul tema. Sì, no, ecco Dario, i giornali brasiliani che cosa raccontano e che cosa enfatizzano soprattutto? Quanto mettono in luce, tu hai segnalato una serie di inadeguatezze che sono in parte strutturali del paese e delle città, perché io ho avuto la fortuna, sfortuna, di rimanere imbottigliato a Rio e a San Paolo per ore e ore con decine e decine di chilometri di fila, per cui al di là dell'appuntamento olimpico c'è, come dire, un aspetto di congestione, è quello che è. Ma i giornali brasiliani cosa raccontano e cosa enfatizzano soprattutto? Ah, devo dire che con onestà intellettuale non nascondono i problemi, chiaramente come ogni paese organizzatore tende a minimizzarli, probabilmente, speriamo che nel momento in cui i giochi inizieranno davvero, cioè, quindi fra poche ore, domani notte per l'Italia, probabilmente alcuni problemi andranno un po' a semplificarli, anche un po' l'attesa dal punto di vista psicologico, da entusiasmo ma anche apprensione, no? Perché quando la maggiostra si metterà effettivamente in moto, alcune cose saranno inevitabilmente successive. Dal punto di vista dell'informazione, l'informazione è più facile, può accettare la festa, ma che non può nascondere al mondo i problemi che stanno accompagnando fino, direi, all'accensione del tripode olimpico. Speriamo che sia a quel momento, questa che è la prima edizione sudamericana dei giochi olimpici. Direi che quindi c'è questo aspetto a due facce che i media brasiliani comunque non nascondono. Dario Ricci, rimani con noi, adesso c'è l'informazione finanziaria, poi c'è un'altra piccola domanda prima di entrarci nell'analisi. A tra pochissimo. Pronto? Pronto, Filippo? Dove caspita stai? Fa caldo, mi stavo riposando. Riposando? Vieni subito a Radio 24 che devi fare i fuori posto. Più siamo e meglio è. Ah, dici? Fili, stai senza pensieri. Questo non è un consiglio, è un ordine, capito? Vabbè, vabbè, Umberto, però non ti incazzare. Muoviti. Stupidezze. I fuori posto con Umberto Alezio e Filippo Roma, da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano. Abbiamo aperto la ampia pagina tutta dedicata alle Olimpiadi, come immaginate. Non parleremo di sport, ma parleremo di tutto quello che è l'ambiente che circonda le infrastrutture, la politica, l'economia che circondano l'inaugurazione di questi giochi olimpici. E ci sta soccorrendo in questa analisi anche il nostro ottimo Dario Ricci, che è già a Rio de Janeiro. Dario, l'ultima domanda riguarda questa: nelle ultime ore si è anche palesata, ovviamente, non poteva arrivare pure la minaccia dell'ISIS, no? Che allertare ancora maggiormente le forze di sicurezza brasiliane. Lì come viene percepita la minaccia ISIS in un paese che è assolutamente distante dalle vicende medio orientali e anche europee, se vogliamo? Ma devo dirti che la domanda è molto complessa. Posso raccontarti quello che vedo? Che è un circuito olimpico fortemente militarizzato. Sai bene quanto in alcuni paesi l'ostentare le armi sia fonte di preoccupazione, e no, come ad esempio le nostre latitudini, no? Se vediamo nella stazione centrale di Milano dei soldati armati di mitra, comunque sappiamo che sono lì per proteggerci, ma serenissimi non siamo. In altre latitudini, per il caso del Brasile non solo, invece l'ostentazione di questa muscolarità armata dà un senso, per quanto lato, molto lato, di sicurezza. Ecco, è la strada che mi sembra abbia scelto l'organizzazione, il governo centrale brasiliano, per dare il senso di una allerta soft ma comunque permanente. Ecco, sì, diciamo sì. Che i militari entrano praticamente in tutte le nostre fotografie, in tutti i nostri servizi, in tutti i nostri reportage, quindi le esercitazioni militari si susseguono, sono state nei giorni scorsi, poi chiaramente di altre per la conquista, di altre chiaramente meno, ma sono sicuramente costanti. Niente. E quindi c'è questo aspetto che sarà molto generale rispetto al tema specifico. Dario, ti salutiamo, l'ultimissima parte delle tue parole stavano svanendo ai noi piano piano, ma ci ha restituito una fotografia piuttosto precisa di una presenza molto presente, scusate il gioco di parole, muscolare delle forze di sicurezza brasiliane. Il tema della sicurezza è una delle, permetteteci questo gioco, questo esperimento intellettuale, delle tre medaglie che ci chiediamo se il Brasile riuscirà mai a vincere. Adesso entriamo meglio in questa grande domanda che ci stiamo facendo. Lo facciamo con Paolo Magri, direttore vicepresidente dell'ISPI, Istituto per gli Studi sulla Politica Internazionale di Milano. Paolo, buongiorno, ben ritrovato in Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Allora, il Brasile è un paese che tu ami molto e conosci molto bene, e ti sollecito velocemente e brevemente appunto su questi tre temi fondamentali. Da un lato abbiamo un grandissimo evento sportivo che capita in un momento di grandissima instabilità politica, perché c'è questo governo ad interim che deve un po' mettere le pezze qua e là, e però nel frattempo c'è un paese che va avanti. A che punto siamo? La stabilità politica brasiliana con le Olimpiadi in corso, insomma, da pensare. Paradossalmente è più stabile adesso di qualche mese fa. Nel senso che qualche mese fa l'instabilità era percepita, palpabile, c'era una contrapposizione durissima, c'era un governo, un presidente, una presidente che si sapeva quando cadeva, come cadeva, per quanto cadeva, e c'era un'opposizione che montava la panna costantemente. Adesso c'è uno scenario è che c'è il presidente pro tempore Temer, che a fine agosto, è come se voluta, non è così, ma quasi volutamente si fosse spostata la decisione finale sull'impeachment a post Olimpiadi. In realtà sono i tempi della Costituzione che hanno sancito questo percorso, però per ora la situazione è stabilmente critica, ecco. Prima era critica in modo dinamico, adesso sì. È stabilmente critica, perché quello che è davvero critico e che non si capisce ancora come si evolverà è la parte economica, che è il secondo punto che veniva toccato nella domanda. Sì. Cioè, questo governo deve affrontare in primis la crisi economica in cui proprio per la politica il paese è sprofondato. Cioè, la crisi ha origine esterna, ha origine dal crollo delle materie prime e da altri fattori di inefficienza interna, ma la crisi della politica ha dato un'accelerata alla crisi economica. Una crisi economica che adesso si sente. Ricordiamo tutti i mondiali, abbiamo fatto anche... Certo. Qualche trasmissione assieme. Certo. I mondiali noi avevamo le proteste, ma non c'era la crisi economica ancora. Ora c'è la crisi economica e paradossalmente non ci sono le proteste. Sì, perché la situazione è deprimente. È uno dei grandi paradossi a cui questo grandissimo paese in realtà poi ci ha abituato nella storia recente e anche non tanto recente. Poi però c'è un tema, Paolo Magri, che è il tema della sicurezza. Paolo Magri, ti faccio sentire, abbiamo raggiunto Robert Mugga, che è direttore dell'Istituto Igarapé ed è un esperto di sicurezza. Robert per anni si è occupato di traffico di armi e fece un progetto incredibilmente importante e imponente proprio su questo, e da alcuni anni che si occupa invece di sicurezza urbana. Lui abbiamo chiesto in tema di sicurezza come i giochi olimpici stanno cambiando Rio de Janeiro. Sentite. Well, I mean, the Olympics were announced in 2009. And Brazil has been preparing... Rio è un immenso cantiere da 5 anni, da quando alla città sono state assegnate le Olimpiadi, e abbiamo assistito a enormi cambiamenti sul piano del trasporto pubblico, della costruzione dei siti olimpici, degli stadi, eccetera. Molti di questi cambiamenti sono avvenuti in una zona precisa. Rio de Janeiro è una città enorme e molti abitanti vivono le Olimpiadi come un disturbo. Ma sul fronte della sicurezza, quelli che stiamo vedendo oggi a Rio sono i giochi olimpici più sorvegliati e militarizzati della storia. Sono stati schierati 85.000 agenti della polizia militare, migliaia di guardie di agenzie private, gli uomini della polizia locale. Inoltre ci sono 3.000 marines brasiliani, nonché militari e agenti dell'intelligence da oltre 55 nazioni diverse. Ci sono più poliziotti in campo adesso in Brasile di quanti se ne siano mai visti per qualsiasi altra Olimpiade, il doppio di quelli dei Giochi di Londra. Paolo Magri, il tema sicurezza è importante, importantissimo, e in alcune zone del Brasile lo è da sempre. Un commento da questo punto di vista? Beh, uno in linea con quanto stavo dicendo poco fa, che il problema della sicurezza in Brasile è un problema della sicurezza in primis dalla criminalità, non dalla sicurezza del terrorismo. E da questo punto di vista i brasiliani sono abituati che se vanno anche a celebrare la Copacabana, il Capodanno, il Carnevale, la loro celebrazione è accompagnata sulla strada che costeggia la spiaggia da centinaia di agenti schierati in assetto di guerra pronti a dare difesa. Il punto, ci sono state molte polemiche sul fatto che questo controllo alla criminalità fosse solo di facciata, cioè solo nei luoghi frequentati dai turisti e non nelle favelas. In realtà sappiamo che anche nelle favelas il programma di pacificazione, molto criticato da alcuni difensori dei diritti umani, perché l'esercito è entrato e non sempre entra col pugno leggero, però ha creato anche nelle favelas, varie favelas a partire dai campionati di calcio, una situazione inedita, cioè che la polizia entra nelle favelas. Le favelas sul tempo erano terra di nessuno, quindi le gang erano incontrastate. Il tema del terrorismo, qualunque avvenimento in qualunque parte del mondo oggi raddoppia gli agenti rispetto al passato. Anche i campionati europei in Francia avevano il doppio degli agenti dei campionati precedenti europei, questo va da sé. Ci sono stati degli arresti, ci sono alcuni embrioni, ci sono stati soprattutto in passato attorno alla zona tra i confini Argentina, Paraguay, Brasile, dei piccoli gruppi che hanno colpito a Buenos Aires gli attentati alle comunità ebraiche. Si teme che questo possa essere enfatizzato, ma non lo ingigantirei. Grazie mille Paolo Magri, so che sei impegnatissimo in queste ore, ovviamente ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e buon lavoro e alla prossima. Grazie. perché voglio andare un po' più a fondo sul tema sicurezza. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, giustamente stava ricordando dell'ingresso delle forze di sicurezza nelle favelas, che fino a qualche tempo fa erano terreno esclusivo delle gang, soprattutto del narcotraffico. Noi, raggiungendo Robert Mugga, ovviamente direttore dell'Istituto Igarapé, non potevamo non solleticarlo su questo, ma in particolare su un tema che adesso è collegato, perché il Guardian proprio ieri o oggi stesso, non ricordo esattamente la data di pubblicazione, ricordava questo dato: la polizia di Rio de Janeiro è una delle polizie più violente al mondo. Ma sapete perché? Sentite Robert Mugga che cosa dice. Il Brasile ha in termini assoluti il più alto tasso di omicidi del pianeta. Nel 2015 in Brasile sono stati uccisi 6.000 tra uomini, donne e bambini, e nel 2016 ci avviamo a raggiungere un numero simile. Quindi stiamo parlando di una società con un altissimo livello di violenza. La polizia brasiliana, e in particolare la polizia militare, è considerata tra le più violente. Agli inizi degli anni 2000 solo la polizia militare uccideva circa 1.300 cittadini all'anno, che è quanto tutte le forze di polizia statunitensi hanno ucciso l'anno scorso. Quindi parliamo di un problema immenso, ma il punto da sottolineare è che la violenza della polizia brasiliana è notevolmente diminuita a Rio negli ultimi anni. La violenza complessiva a Rio è calata del 20% negli ultimi 5-6 anni a causa di una vasta campagna detta Programma di Pacificazione. La ragione di questa violenza, tuttavia, è che stiamo parlando di una polizia militare che è addestrata con tecniche di assalto da 200 anni, una forza molto repressiva che è diretta più alla protezione dello Stato che alla protezione dei cittadini. Inoltre, stiamo assistendo a un calo di determinazione della polizia dovuto a incidenti che hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, l'indignazione del pubblico, e il risultato è che ormai i poliziotti hanno una bassa considerazione dei loro compiti, quindi usano la violenza più che in passato. Infine, a Rio c'è una situazione molto complessa a livello di criminalità organizzata. Ci sono 3 gang principali attive nel traffico di droga, ci sono gruppi di vigilanti ovunque e le forze di polizia conducono una guerra quotidiana in questa situazione di fuoco incrociato. And the police are in a daily struggle with these gangs and it creates a very high level of violence in some of the lower income parts of the city. E questo era il tema sicurezza che Robert Mugga ci sta aiutando a tratteggiare e sul quale facciamo intervenire anche, ben ritrovato, Roberto Arin, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Nei paesi dell'America Latina, volevi aggiungere qualcosa? Ma sì, questa cosa Roberto. Dell'ISIS è piuttosto interessante e ciò che ha detto il dottor Magri, direttore dell'ISPI, corrisponde al vero. Io aggiungerei però un aspetto che forse è stato sottovalutato. È vero che il Brasile è un paese dove tradizionalmente il melting pot ha funzionato e dove c'è un'integrazione collaudata da tempo. È anche vero che non c'è appunto una tradizione conflittuale neppure a livello sociale, a parte questi ultimi anni di crisi economica. Ciò detto, l'ISIS da alcuni mesi ha fatto campagna in portoghese, quindi questa è una notizia di una certa rilevanza, cioè il proselitismo dell'ISIS sta diventando inquietante perché è evidente che non potrà essere costituita una rete come quella che si è scoperto esserci in Belgio, in Germania o in Francia, questo è assodato, ma i lupi solitari sono quelli che negli ultimi 2 mesi hanno fatto le stragi più inquietanti, allora lì sì è facile intercettare dei singoli psicopatici che possono essere nelle condizioni di fare grandi danni umani oltre che materiali. Ci torniamo su questo tema, la piccola parentesi ISIS durante le Olimpiadi in Brasile. Intanto le informazioni sul traffico, poi di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. È l'inquietante mano musicale, se volete, che si allunga su quest'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, non è stata scelta a caso perché è la colonna sonora di un film che si chiama Tropa d'Elite di José Padilla, che è un film che ben indagava non soltanto le favelas di Rio, ma anche il rapporto tra la polizia brasiliana, le forze speciali e la comunità proprio il luogo, l'humus dalla quale alcuni di quei poliziotti, quegli esponenti delle forze dell'ordine venivano. È un film molto molto interessante e illuminante da certi punti di vista. Al 349-238-6666 ve lo ricordo, sia gli sms che i whatsapp. Giusy ci dice: ma c'è una storia che gira, immagino intenda sui social, dei bimbi di strada uccisi dalla polizia o simili, è vera? Roberto Darin: intanto è vero che quando vi sono le operazioni di polizia o scontri fra le gang nelle favelas, le pallottole vaganti non guardano in faccia nessuno, quindi che siano maggiorenni o minorenni. Però c'era forse qualche anno fa una storia in particolare che tratteggiava questo scenario inquietante per cui bambini venivano presi di mira. Dunque, non proprio bambini venivano presi di mira, però effettivamente c'è stato un episodio piuttosto inquietante alcuni anni fa, in cui pare che dei bambini siano, gli adolescenti siano stati coinvolti in una di queste irruzioni della troppa d'élite. Va detto che già una decina d'anni fa sono state messe a punto queste competenze speciali delle forze di polizia che abitualmente irrompono nelle favelas, perché la piaga era diventata di dimensioni tali che in vista dei giochi olimpici, dei campionati del mondo di calcio e prima ancora per l'immagine che il paese diffondeva di se stesso negli anni del grande boom, sì, non era più compatibile un'altra società delle favelas, che sono centinaia, sì, in cui vigeva la legge del più forte. Quindi è stato messo a punto un vero programma politico sicurezza politica che dovesse insomma mirato a contenere il fenomeno, e da lì in effetti quello che poi è successo veramente nelle favelas non lo si può sapere con dettaglio. Certo, rimangono zone d'ombra, questo è evidente. Rimangono in quelle zone. Il grande paradosso è che sono zone urbane, sono ormai dentro il tessuto metropolitano, una volta nascevano nelle periferie, no? Poi totalmente inglobate, e all'interno di grandi metropoli attuali, del futuro, tu hai queste zone d'ombra incredibili, con anche a volte dei vuoti ovviamente dello Stato riempiti, come è d'abitudine, dalle organizzazioni criminali. Tra le organizzazioni criminali terroristiche che si fanno più sentire negli ultimi mesi, anni, ahi noi, c'è ovviamente l'ISIS. Abbiamo solleticato Robert Mugga anche su questa minaccia. Già Roberto Darin, come dire, ci sta aiutando a dare un corpo e un'altura diversa a questa potenziale minaccia terroristica. Sentite Robert Mugga, direttore dell'istituto Igarapé, che è un think tank brasiliano specializzato proprio sulla sicurezza urbana. Sentite che cosa dice. Il punto è che parliamo di un contesto globale di minaccia che è sorto dopo la nascita di gruppi come ISIS e Al-Qaeda, e questi gruppi sono diventati sempre più decentralizzati. Lo abbiamo visto con gli attacchi di Parigi e Nizza, e con gli attacchi in America, Asia, Africa negli ultimi 12 mesi. Sarebbe folle per le autorità brasiliane non prendere seriamente le minacce di ISIS, ma detto questo non c'è mai stato un attacco terroristico in territorio brasiliano, e il pubblico brasiliano ha assistito con sgomento alla diffusione di queste minacce internazionali. Il fatto che ci fosse una minaccia diretta al Brasile è diventato chiaro dopo gli attacchi di Parigi a novembre, quando aderenti all'ISIS hanno dichiarato che i giochi olimpici di Rio erano il prossimo obiettivo. Questo ha incendiato il dibattito in Brasile. Il governo ha detto che siamo preparati da 5 anni. La minaccia si è concretizzata a maggio, quando è emerso che ISIS aveva creato un canale in portoghese con Telegram, attraverso il quale incoraggiare lupi solitari ad attacchi contro i siti olimpici, specialmente siti stranieri, europei e nordamericani. La polizia ha arrestato 12 sospetti, probabilmente dopo un suggerimento dell'FBI, e questo ci spiega che c'è un alto livello di comunicazione. Ma questi terroristi sono stati descritti come dilettanti, gente che non è mai stata in Siria ad addestrarsi, gente che si era convertita all'Islam di recente. Penso che il governo brasiliano e le forze di polizia adesso siano pronti per un vasto attacco con l'impiego di armi chimiche o batteriologiche lanciato da una rete sofisticata, ma è più probabile che si trovino di fronte a un gruppo disorganizzato formato da 1 o 2 individui. But I think what they're most likely to encounter, if anything were to happen, be a very disorganized group, you know, more along the lines of what we saw in Nice than what we saw in Paris. E Roberto Darin, Robert Mugga in buona sostanza va a consolidare quello che già tu dicevi, cioè la minaccia terroristica che si sfilaccia, perché non è più un comando, non è più un attacco preparato nei minimi particolari con un comando che arriva magari dall'estero eccetera, ma è lasciata la libera azione folle di un solitario, quindi molto meno prevedibile. Noi stessi nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato degli attentati sventati e tutto ricade in modelli di previsione, fondamentalmente, cioè gli scenari che io posso prevedere. Chiaramente l'attacco che vince, tra virgolette, che ha successo, è quello che ricade in uno scenario che noi non si poteva prevedere. Secondo Robert Muga, le forze di sicurezza brasiliane sono ampiamente preparate su attacchi anche chimici di larga scala, eccetera, con questa anche presenza molto muscolare, no? Nelle strade, un po' meno forse su gruppi disorganizzati, magari di uno o due individui. Apriamo il capitolo economico, che in realtà è strettamente collegato a questo dell'ISIS, perché la previsione dei modelli, perché dispiegare l'esercito, ripulire, si fa per dire, le favelas, costa parecchio e sta costando al governo brasiliano. È un'economia che, come possiamo descrivere questa? Sarebbe la terza medaglia che diamo, no? Roberto Arini, con questa piccola provocazione, ci verrà concessa al paese che ospita le Olimpiadi. E questa medaglia, io temo che questa durante questi giochi olimpici non possa venire assegnata. Va detto che il Brasile negli anni scorsi si è aggiudicato una Coppa del Mondo, nel senso che ha guadagnato la copertina dell'Economist, i complimenti personali di Obama, che sì, si è rivolto a Lula dicendo tu sei il più bravo di tutti, l'economia brasiliana che veniva additata da tutti i paesi del mondo, sviluppati, emergenti e sottosviluppati, come un modello da seguire. Quindi lì in effetti c'è stato questo grande scatto che ha legittimato il Brasile a livello politico, oltre che a livello economico, come uno dei grandi interlocutori. Stefan Zweig, un sociologo, diceva 50 anni fa: il Brasile è il paese del futuro. Invece, questo però sì, era un auspicio che mai si verificava. Invece sì, il Brasile è diventato il paese del futuro, e quindi tutti hanno detto che finalmente questa profezia, che però non trovava mai spazio di realizzazione, si è realizzata. Ciò detto, 5 anni fa è iniziata una crisi che si è aggravata in modo progressivo. Pareva che la grande batosta del 2008 potesse in qualche modo risparmiare il Brasile e altre economie latinoamericane. Invece così non è andata. Il Brasile ha patito il crollo dei prezzi delle materie prime, di cui è grande esportatore, soprattutto quelle agricole, e poi la domanda frenata della Cina, che ha importato meno. Questi sono stati due fattori scatenanti che hanno in qualche modo interrotto la grande corsa. Anche a livello congiunturale, naturalmente, i cicli economici sono fatti di accelerazioni e frenate, quindi tutto questo ha un suo perché. È improbabile, per venire in modo più sintetico alla risposta, sì, che la ripresa possa venire in tempi rapidi. Questo è improbabile. Ciò detto, il Brasile è un paese di sterminate risorse, con grande 28 volte l'Italia, è uno dei granai del mondo, ha delle potenzialità straordinarie, quindi in questi giochi olimpici non vincerà la medaglia della stabilità economica o della ripresa, questo no, è sicuro. Però ci sono buone ragioni perché possa riprendere il suo percorso di crescita. Certo, in questo momento ci sono 4 crisi che si intrecciano: una crisi, sì, economica, una finanziaria, una sociale, una politica, e questo naturalmente non può che rendere più complesso e inestricabile il nodo. Certo, sinteticissimo, abbiamo un minuto, poi ci vogliamo lasciare. Abbiamo allungato delle ombre su questo appuntamento, ma il finale sarà un po' più alto, un po' più elegico, via. Però il volano olimpico in qualche modo dovrebbe funzionare nel risollevare almeno alcuni degli indicatori economici, secondo te sì o no, telegrafico? Sì, il volano di sicuro lavorerà come è stato predisposto. Tutti sperano che in questo palcoscenico mondiale il Brasile torni ad essere splendente come è sempre stato. Va ricordato, io a teatro poche settimane fa, proprio a Rio de Janeiro, il primo attore entrando dicendo che le coreografie non bastano, ci vogliono le coreografie emotive. E il Brasile è un grande maestro nel saper offrire a tutto il mondo delle coreografie emotive. Grazie mille, Roberto Darin. Grazie a voi per essere stati all'ascolto. Un grazie anche a Antonio Tali, Eleonora Aragona, Silvia Mannati, che hanno confezionato con me questo programma. Andrea Roccabella adesso mi aiuta a lanciare questo brevissimo frammento di elegia per lasciarci con un filo di speranza. Tutta Carioca, Orfeo Negro, Marcel Camus, era il 59. A domani, un saluto da Giampaolo Musumeci. Ele fez o sol levantar. Puxa, igualzinho ao Orfeo. Agora você é o Orfeo. Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca.